Amore, amore, amo di più, perché sei bella più del sole, perché il mio sole sei tu. Come una bimba innamorata, tu ti stringevi sul mio cuore, e l'aria dolce profumata mi dicevi allora, parlami d'amore. La notte accende le sue stelle, ti voglio ancora vicino a me, per dirti tante cose belle e per sognare con te. E aspetterò che spunti il sole per sussurrarti a tu per tu. Ricordi ancora le mie parole, non le scordare mai più. In questa notte di poesia, che non potrò scordare più, ti sento ancora tutta mia, perché mi sai capire tu. Non le scordare.